the shattered of the night. Oh, my way controls my soul. I believe when I miss you, I want to go down in your misery. Fangy, fangy, I'm singing right. I'm the 21st century, breathing my mind so fast. You understand me? I want to bounce on your history. Little fame can be a strict on the brain, but I'd rather be famous than righteous or holy day and day and day. But I'm an ethical film, making Christmas cards little, and live I want to love. I catch that me, but I'm a dishing doll. Franklin is the shiny, is the shiny pals. Pays my way and controls my heart. And relatives of the local partridge should be Prime Minister Jackie's and shoe as you are but tremendous. I do not need to be so rude, so I must speak frankly, shankly, obviously. Oh, benissimo, ci senti tutti? Siamo qui nell'aula più occupata a squagliare letteralmente di caldo. C'è questa finestra fantastica che dà sul vuoto, si può dire, e che permette insomma alla luce di inondare l'aula e a noi di morire di caldo. Quindi ringraziamo questo fantastico clima che certamente ci permetterà di avere una bellissima puntata quest'oggi, siamo sicuri. E dunque ritorna in diretta dopo un po' di giorni, dopo qualche settimana di latitanza, insomma dovuta anche a qualche festività eccetera eccetera, vari impegni, va bene, però siamo tornati qui dopo questa diciamo pausa. E intanto ringraziamo tutto il nostro pubblico che ci sta sostenendo in questa giornata veramente caldissima. Se il nostro pubblico vuole salutare qualcuno, ma lo vedo un po' pubblico, che dici? Ciao pubblico. Finalmente abbiamo uno. Dunque parleremo soprattutto del 1° maggio, di questa bellissima festività che è appena trascorsa e che è stato teatro in quel giorno che appunto è andato via, di una serie di contestazioni alle CGIL un po' in tutta Italia, i cosiddetti sindacati confederati sono stati oggetto di una serie di iniziative, perché ormai si sa bene e si è capito che questi sindacati... Tutti quanti il cazzo della CGIL, punto. Benissimo, ci piacciono molto queste incursioni, grazie. Tanti e tanti cittadini, tante e tante persone, lavoratori, disoccupati, precari, ormai hanno ben chiaro quello che diceva prima il nostro pubblico, cioè ci siamo rotti della CGIL, ci siamo rotti di chi ci vende, di chi vende le nostre lotte e ci lascia nel baratro più profondo. Rubi stipendi, sì, i famosi rubi. Esatto, i rubi stipendi. Bene, io direi ascoltare dopo questa prima... Saggio, direi di ascoltare una canzone molto bella che faremo ascoltare anche il nostro pubblico, dove fanno fine la camomilla. Intanto mi chiedo scusa umilmente per la voce di oggi che va veramente schifo, ed ecco qua l'officina della camomilla, amore per colazione. Marciamo a te per colore schifo, non mi da abstricere a goggiare, sono triste in arai dei pazzi. La razza, la solitudine, di sotto è un vale sulla so, ci sono ore di ciò, nell'azzurro o di pazzi miei. La narra, la solitudine, di solitudine, è un vale, non è caso, ma ti arriva, nell'azzurro o di pazzi miei. Hai vinto, ridemi, nuovo passo, ma al voli sembra male, forse, ho sbagliato. Non ti vorrei di tanto d'opporso, non arrasta il mondo ad andare in macchia. Ragazzi, fa quello che sei boccata. La ragazza è la sottine è un fatto esploso. Ci sotto le rivalle e l'azzurro o dei cazzi miei. Mia gatta è sottine, la solitudine è un vento. Allo sono morti le rivalle e l'azzurro o dei cazzi miei. Conclusa la bella canzone, lo finale della mondo, credo che sia veramente molto apprezzato. Però vogliamo anche ricordarvi un altro importante momento, ovvero sia i test invalsi. Che cosa sono questi bei test? Sono in pratica strumenti che servono a valutare non tanto le conoscenze competenze e le capacità degli studenti, quanto servono a valutare e a controllare in particolar modo quello che i docenti riescono a inserire nelle menti degli studenti. Si fa praticamente misurare delle nonne, si conoscono, in base a quello poi non valutare gli studenti, ma valutare la scuola, il sistema scolastico italiano, alla fine da capire l'insegnante che riesce a avvisare le menti degli studenti e quello che tende a rendere le menti becchiamente in questo sistema scolare italiano che va sempre di più verso un tema centrale burocratico dell'educazione. In tocca, chiaramente si saranno dei docenti che magari saranno diversi rispetto a tenere la chiave delle menti. Quindi non si nega il fondo di situazione, tutto nega l'abilità, gli studenti si esprime, i docenti cresce nella libertà. Di conseguenza, diciamo che qualche sindacato ogni tanto si accorge qualcosa. E qui ecco che vengono dei COBS, però non da CGL, che è una cosa che lì sono a favore, che li valsa una cosa buona secondo loro. Comunque, questi sindacati di base hanno inventato delle giornate di shopper proprio per bloccare questi test invalsi. Speriamo che scioperi, che questa giornata di protesta non si trova nella classica considerata molti docenti che sostengono ma io non lavoro per 50-80 euro di soldi, ma la giornata lavorativa che mi vengono sottratti. Quindi alla fine diciamo pochissimi, molte volte i docenti che aderiscono agli scioperi, una classe lavorativa più come dire, lontana dalle istanze sociali, più abbandonata a se stessa, che non crede in alcuna forma di lotta. Stiamo parlando della classe docente sia di ruolo che precaria, che è chiamata comunque questi giorni a scendere in piazza o a tenersi dal lavoro per bloccare i test invalsi, appunto nelle varie scuole di ogni ordine e grado sono previsti da qui a pochi giorni. Ci auguriamo comunque che questo giorno di mobilitazione, che queste giornate di mobilitazione, che sono diverse rispetto a scuole superiori, scuole di primo grado, insomma, sono diversi giorni, speriamo che appunto queste giornate facciano riflettere molto. Noi non siamo molto ottimisti rispetto a questa classe di lavoratori. Il pubblico vuole aggiungere qualcosa su questa classe di lavoratori? Sì, tanti auguri, tanti auguri. Esatto, tanti auguri davvero, ci vogliono davvero tanti auguri. E a ogni modo, insomma, speriamo che questo test invalsi riesca ad avere a essere bloccato. Sicuramente il nuovo governo non crediamo proprio faccia qualcosa in volta a sopprimere questa misurazione delle nozioni impartite agli studenti da parte dei docenti, quindi si deve capire il docente libero che deve essere magari poi perseguitato, non sappiamo bene come, o comunque valutato. Questa voglia di valutare, di andare ad analizzare ogni minuzia senza comprendere che in realtà stiamo parlando di esseri umani che sono in crescita è veramente qualcosa di allucinante e che porta soldi solo a chi organizza questi test, e che crediamo sia poi quella una delle spinte propulsive verso questi test. Ma ora ascoltiamo comunque i Clash, smettiamo di parlare e ascoltiamo questa bella canzone dei Clash. Now every chick who fucks a bug in with the world ends up making payments. altro che le che non si mi state ascoltando. Bene, sì, ci siamo, ok. Benissimo, beh, dopo questo primo accenno, insomma, la questione dell'Invalsi, a questo show, a questa giornata di mobilitazione di scioperi indette dai sindacati di base, parliamo invece della giornata di ieri, del primo maggio, insomma, una giornata che ha visto, insomma, in molte piazze alcune importanti iniziative. E infatti vediamo. Ci sono state una serie di iniziative. Per esempio, stiamo guardando in realtà alcune immagini dell'USI, dell'Unione dei Sindacati, insomma, dell'USI, che ci ricorda, insomma, varie iniziative che si sono svolte, per esempio a Parma il primo maggio, dove c'è una bella foto che ancora non riusciamo a caricare, ma è bella, ve lo assicuriamo. E poi altre iniziative, il primo maggio alle macerie e baracche occupate di Molfetta, ancora, e poi vediamo altre iniziative che sono state appunto postate qui, qui sempre a Parma, dove vediamo questo striscione significativo, case popolari. Blocco degli più case popolari, blocco degli sfratti, una questione che certamente tocca molti abitanti, soprattutto delle zone urbane d'Italia, visto che i soldi latitano, ma le tasse e tutto quanto è da pagare, quindi molte persone rischiano lo sfratto in questi giorni, in questi tempi di crisi. Ma anche Parma è stata piazza di un primo maggio dell'USI, e ancora, insomma, qua stiamo, come avete capito, dando notizia indietro perché non abbiamo fatto la scaletta in noi, anche un bellissimo primo maggio a Bisceglie, e infine anche altre iniziative, meglio come dire, ecco, abbiamo fatto un piccolo errore, altre iniziative in altre città. Ma mentre il primo maggio di base, dei sindacati di base, aveva luogo, mentre il primo maggio in tanti luoghi occupati, ricordiamo quello di Forte Prenestino, dove ormai è consuetudine fare un bel primo maggio serio e non le cacate di, scusate il termine, di concerti del primo maggio in piazza indetti da CGIL, CISL e UIL. Invece al Forte Prenestino ci sembra un bellissimo ambiente, insomma, chi c'è stato ne dà conferma, vero? Verissimo, si sta benissimo al Forte Prenestino il primo maggio, il posto migliore dove poter passare la giornata, compagnia di artisti, musicisti, ci sono varie zone di tutto il centro, lo spazio occupato disponibile per suonare, chi vuole improvvisare, è una situazione davvero che raccoglie centinaia e centinaia di persone ogni anno, e ogni anno cresce sempre di più. Infatti quest'anno avevano fatto l'iniziativa, era il primo maggio dei non lavoratori, incontro primo maggio, e quindi proprio sensibilissimi al tema e molto più attuali della nostra politica, e come ben sappiamo la nostra politica è sempre più distante dalla realtà, purtroppo. È proprio così. E mentre Forte Prenestino, in tante altre località d'Italia si svolgevano varie iniziative per parlare soprattutto del non lavoro, del lavoro che manca, anche a Cosenza, insomma, nell'auditorium popolare veniva organizzato un bel primo maggio, insomma, una serie di concerti e una serie di contenuti, si reclama reddito sociale, si parla soprattutto di precarietà intesa come bene comune. È venuto anche il vostro sindaco, vorrei ricordarvi che è il vostro fantastico sindaco. Vabbè. Infatti, a fare una passeggiata con gli amici, così, chiesto un po' di fumo, non l'ho trovato però. Benissimo, dopo questa digressione, diciamo che sì, anche il sindaco di Cosenza, insomma, si è trovato qui di passaggio. Non so, insomma, andare via, lo cercano di togliere in tutti i modi, ma si vede che gli piace l'area, magari è un, non lo sappiamo, può essere un compagno nascosto che noi non conosciamo, un compagno infiltrato, no, addirittura. Non credo proprio, non è possibile che sia uno di noi infiltrato nelle maglie del potere. Forse gli piacevano i colle del fomento, oppure c'ha, non lo so, il figlio che sicuramente ascolterà i pop, quindi c'era tutta questa scena, insomma, ieri alle 2:30 i ragazzini scappavano praticamente. Sì, dobbiamo anche spazio, perché in effetti tutti quanti il giorno dopo dovevano andare a scuola, c'era da far caso a questo, cioè c'erano i gruppetti che rimanevano fermi e poi mentre i ragazzini con scappavano, sono evacuati in un attimo, se sono adeguati. È vero, molti ragazzi anche accompagnati dai genitori al rialzo, una cosa che sinceramente io non avevo ancora visto con grande frequenza. Invece ieri sera dobbiamo dire che c'è stato un pubblico davvero vasto, eterogeneo, molti ragazzi giovani, chiaramente molti sono convenuti lì per ascoltare la musica, però ascolta oggi, ascolta domani, qualche contenuto prima o poi arriva. Quindi anche a Cosenza c'è stata questa bella iniziativa dal basso all'auditorium popolare. Poi ovviamente anche a Cosenza ci sono state iniziative della CGL, che vabbè. Un Bennato scazzatissimo che suonava proprio depresso fra una piazzetta, cioè si trova in una via praticamente, da quando ho visto era fra, a sinistra c'era una piazzetta fascista e a destra la CGL. Proprio, infatti non so se ci sarà modo, magari ascolterete anche Briganti se more, quella versione che ha fatto proprio tremenda. Una cacata, cioè sì. esatto, proprio una cacata micidiale. E la piazza ferma lì, muta, insomma, nessuno che accennava ai balli, tranne qualche temerario che insomma si è fatto notare. Sì, svogliato. Lui era svogliato sul palco, non so se ci ha fatto caso. Sì, non gliene fregava niente, perché insomma era proprio seccato. Dice, che palle. Perché ovviamente ha visto la piazza, insomma, questa strada chiusa fondamentalmente fra una piazza Vittoria, piazza fascista, e è la sede storica della CGL, dove però nel 1920, ricordiamo, era anche quella zona sede dell'USI, quindi insomma prima moccia sa CGL, ma negli anni 20 ricordate che a Cosenza c'era una forte sezione USI, soprattutto per quanto riguarda i laboratori delle ferrovie. Ma invece andiamo un po' in tutta Italia, vediamo che cosa è successo. Abbiamo prima parlato insomma di questi primi maggi un po' dal basso, invece dall'alto CGL Cosenza fa feste, solite feste di tipo unità, cagate qui, diciamo pure, che la gente ci va giusto per uscire, ma prive totalmente di qualsiasi contenuto. Cercano di monopolizzare, ormai è diventata una cosa è troppo, cioè fin quando vai alla festa dell'unità, ok. Però poi ogni anno sono sempre gli stessi che le organizzano, le fanno, non so, il cambiamento qui appunto dove può essere. Com'è? Diciamo che il cambiamento non esiste in questo caso, ma è un bellissimo leopardo, ok? Un gattopardo, Leopardo, sì, quelli smacchiabili proprio. Il gattopardo che non si smacchia, secondo me. Il gattopardo di Tommasi di Lampedusa. va bene. E invece vediamo insomma che queste belle contestazioni che si sono avute un po' in tutta Italia, in particolare insomma questa che molti media hanno parlato di questa questione, a Bologna i sindacati pensano bene di creare un bel tavolo di discussione con Danilo Gruppi della CGL, Alessandro Alberani della CISL, Gianfranco Martelli della UIL, insomma proprio quei sindacati che a noi piacciono tanto, Vasco Errani, governatore della regione, e poi Giampiero Calzolari, Lega Coop, e siamo a Bologna, e Alberto Vacchi, un'industria e una dipendente della Perla, Patrizia Fabiettica, che dalle 10 di stamattina in Piazza Maggiore ha dato il là alla manifestazione per la festa dei lavoratori e che ha portato a casa il primo risultato. Vabbè, stronzate, impegni comuni, vabbè, buongiorno, anch'io posso dire mi impegno a fare una cosa e poi non la farò mai. Il dato significativo è che durante questa bel fritto misto che sinceramente non ci sconvolge più di tanto, perché ormai sappiamo che questi sindacati sono a servizio del padrone, quindi giustamente dialogano tranquillamente con il padrone, non si scontrano mai con esso ormai. Abbiamo esponenti della triplice più industriali sedute a uno stesso tavolo che giustamente, devo dire, parlano perché sono fra di loro, sono tutti lì fra amici. E a un certo punto invece si leva una forte contestazione dalla piazza, viene finalmente contestata la CGL che sempre di più, dobbiamo dirlo, sta perdendo colpi. Chiaramente il mainstream cerca di occultare tutto questo, dice che è stato un piccolo gruppo di persone, che i fischi sono stati coperti dagli applausi e via dicendo. Fatto sta che in tante piazze di ieri la CGL è stata ampiamente contestata, CGL, CISL, UIL chiaramente, e ha voglia ribadire insomma che la crisi è un problema che riguarda tutti, dice Vasco Errani, il governatore della regione, oppure si invocano i patti generazionali, insomma tutti grandi paroloni che alla fine significa voi noi siamo tutti da un lato, voi lavoratori, schiavi, state zitti, non contestateci, se proprio volete farlo, tanto non ce ne frega niente che noi siamo tutti d'accordo. Fondamentalmente il senso di questo, di questa vicenda di ieri è questo, insomma, ci va partire questo. Poi un'altra bella cosa è che il banchetto del Partito Democratico è stato circondato da gente che urlava: ci fa schifo il contenuto, non le facce. A casa il governo della DC e ancora smontare tutto, smontate tutto, è andata a casa. Quindi anche una bellissima contestazione a questo fantastico partito che non possiamo definire di sinistra. PD. Un partito, non è un partito, cos'è? È vero, che cos'è? Una pizza rustica? È un porco... PD, porco Dio. Ah, si può dire? Certo. Sul sindaco non si può dire. Porco Dio, sì. E certo, perché Dio ci ama. E come... Dio ci ama, chiudo, no, questo è il punto, quindi possiamo dire porco Dio. Ma Maria pure. No, Santa Maria prega per noi. Fuma per voi. Oppure possiamo anche recitare una bella, come si dice, preghiera in latino. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis. Spegni il microfono. Si spegne il microfono per il piccio? Dio si arrabbierà con noi? Dio si arrabbierà con noi. Forse come il PD. Come il PD, vabbè. Non esiste. Non esiste, è vero. Dio è come il PD, entrambi non esistono. Grazie Gesù, sempre. Grazie Signore, sempre. Sempre. Sempre sia... Lodato. Sempre, no, sempre lo... sia latitante. Così, no? Sempre sia latitante, si dice. Ah, ok. No, non lo so. Vabbè. Possiamo continuare a dire stronzate? Sì, perché devi sapere che questo programma in diretta in sé ha un'altra rubrica che si chiama Figli di, che è la rubrica del cazzeggio, e noi in questo momento stiamo facendo proprio la rubrica Figli di. Figli di? Tu, di figlio di, spiritualmente parlando, di chi? A chi ne razza, a seconda, no? Si dice così pure, a chi ne razza, a chi ne appartiene? Ah, in dialetto sì. Ah, vero. E quindi tu spiritualmente ti senti figlio di Akira Kurosawa? No, non lo vuole dire, ok, va bene. Non è difficile, non so, mi ho messo in difficoltà. Potevamo metterci d'accordo prima sulle domande, no? E no, questo è il bello. Quindi cioè, è partita la rubrica perché hai trovato una vittima intorno? No, la rubrica vive di vita propria, quindi parte in automatico quando decide lei, non sono io a deciderlo. Chiamiamo qualche altro, non lo so, ci chiamo qualcun altro da non intervistare, vediamo qui a fianco. Ma qui ci sono dei super nerd che dicono no, che state facendo ragazzi? Dai che no, che muovi a chiappio, la prossima volta facciamo un bel programma dedicato ad Hack Meeting e in quel caso sarete costretti. Abbiamo sentito un forse. Va bene, io direi di ascoltare un po' di musica a questo punto e poi partiamo con l'ultima notizia che è relativa proprio alla... Una bomba. Non annunciamo nulla. E ora scegliamo piuttosto che cosa ascoltare. Allora, possiamo ascoltare Morire dei CCCP, ma con questo caldo penso che forse è un po'... Oppure possiamo ascoltare I Diaframma. Sì, I Diaframma, Tre Volte Lacrime. Ok, ascoltiamo Tre Volte Lacrime. Qua. La mia via, un botto perfetto in corpo da sogno. La mia ossessione, anche lei, dove non arrivo, dove non arrivare. Lei è contro di me, e lei è contro, lei è contro di me. La mia gelosia, due bracci più grandi di ogni mio sbaglio. L'amore sconfitto è un varco Ed ecco qua, abbiamo ascoltato questa bella canzone dei Diaframma. E ora giungiamo davvero all'ultima notizia di oggi. Parliamo dunque di questo ultimo mese di avvicinamento all'Hack Meeting, che come sapete si terrà dal 7 al 9 giugno a Cosenza, nell'area dell'ex officina delle Ferrovie Calabro-Lucane. E chiaramente in tutta la regione, in tutta la Calabria più o meno, ma in tutta Italia fondamentalmente, si sta portando avanti insomma un discorso di avvicinamento con varie tappe, vari momenti di seminario e di incontro. E il prossimo incontro, quello proprio fresco fresco, che è previsto domani all'associazione Le Lampare di Cariati. E domani 3 maggio, scusate, ci sarà questo seminario che parla. Il seminario si chiama Pillole di autodifesa digitale. Approfitteremo di questo seminario per andare un pochettino per sponsorizzare l'Hack Meeting 2013 che si terrà a Cosenza, quindi mancate nessuno, mi raccomando, invitate amici, eccetera, spargete il verbo, si può dire? Sì, si può dire. Secondo me non si può dire. Spargete. Spargete. Suona come quell'altro tipo. Vabbè, comunque, a parte questo, c'è questo seminario, quindi evitate in zona, creare di toni, potete venire tranquillamente. C'è quindi un seminario su come difendere la propria privacy su internet, si sicuri di comunicazione. E dopo ci sarà una cena sociale, più Install Fest, così come la chiamano, ragazzi, Powered by Autoflow, l'evento, quindi ci saranno un'altra parte tecnica, eccetera. Poi dopo ci sarà una cena. La mare faccia vera. Sì, tutta a base di concerto, sottotorio, soggetti. Ci sarà anche la sardellina, dire. La sardellina, vabbè, io non mangio sicuramente. Poi dopo forse vedremo anche Porco Rosso. Oh, Porco Rosso, bellissimo. Sì, un'animazione di Miyazaki. Ti ricordi di quant'è? Dovrebbe essere del 2000, no, forse del 2012 proprio. Comunque, 2012 è bello questa storia del porco. Che porco? Un porco perché lui decide di diventare porco in quanto non va a diventare fascista. Divento porco. Sì, tanto lui è praticamente ambientato in Italia, quindi ci sarà un modo anche. Probabilmente metteremo questo, vediamo se ci va. Esatto, se ci va, ci piace molto, è nello spirito proprio della Hacking. Esatto, quindi insomma approfitterei anche perché il giorno dopo c'è un'altra iniziativa, sempre l'associazione Lampare, cooperativa Nove Torri ed altre in realtà del paese che lavorano sul turismo, a quanto pare iniziano anche a prenderci seria in considerazione, anzi a darci spazio e modo per poter fare delle iniziative, quindi faremo una rete ecologica alle 7 di mattina. Bellissimo questo orario, devo dire, con la scelta. Sì, non so chi l'abbia scelto, però sicuramente hanno detto le 7, così faranno le 8, ma si faranno le 7, così. E poi dopo che c'è una guida del liceo storico di Cariati con una ragazza che ha studiato storia dell'arte, ci parla dell'architettura, c'è Cariati nel Brucatico, cosa c'è da vedere, come funzionava. Seguiamo un aperitivo la sera, e dopo l'aperitivo lo spettacolo teatrale di Giulio Buffo su Peppino Impastato. L'evento si chiama Cariati Out. Centro ben comune, insomma, ci sarà anche questo spettacolo, secondo me è molto interessante da vedere. Quindi, insomma, l'obiettivo di questa giornata del 4 è quella di riappropriarsi di uno spazio perduto, che è quello del centro storico di Cariati, dobbiamo dire, è davvero interessante rispetto invece alla cementificazione di Cariati che troviamo a Valle, vicino al mare, giusto? Sì, c'è un modo pure per conoscerla anche, ma che è un po' diverso, perché invece di fare solite, tipo, non è organizzato dal bar dei pensionati, come l'escursioncino, la cosa, comunque cercare di dare anche uno spirito un po' diverso, tanta musica, e questo spettacolo appunto a te. Comunque ricordiamo, pare che sia oggi l'università di Peppino Impastato, oggi c'era qualcosa, sì? Va bene, noi non lo sappiamo, con le date abbiamo qualche problema, ma insomma, spettacoli teatrali, incontri, discussioni, è tutto per riscoprire questa cittadina, che comunque vive anche tanti altri problemi, insomma, non solo l'abbandono del centro storico, c'era un altro problema serio a Cariati, tanti magari, ma uno che accomuna tutta Calabria, i rifiuti. Ora, com'è la situazione a Cariati sui rifiuti? La situazione è che i rifiuti che hanno deciso di non riaprire ma utilizzare uno spazio che una volta si scarica e a banca lì per un momento, in quanto sono numerose segnalazioni e lamenti, perché comunque lo abbandono qui di ogni quartiere di almeno 10-15 metri cubi di rifiuti, cioè 10-15 metri cubi appena su un gassone di un camion, parliamo di odori inabondi, delle zanzare, comunque la stagione giù è arrivata, ma che fa caldo, tutti gli alberi sono in fiore già, e quindi ci si ritrova così in sommerso, ma ormai purtroppo la gente sente parlare del telegiornale, Napoli e Roma, Sicilia, pare tutti disaccordati da Calabria, delle emergenze che qui invece dura da novembre. Ricordiamoci che novembre del 2012 che stiamo l'emergenza dei rifiuti, nuovamente, non parliamo della vecchia emergenza dei rifiuti, e ancora non sono solo state fatte chiacchiere, tutto ciò si prova per la gente a popolare di sera, che quanto si già 50.000 film, parliamo di questo, le soluzioni ci sono, ma non si vogliono dotare. Esatto, soluzioni ce ne sono, si vogliono dotare. Non, anzi, vabbè, ormai c'è anche chi continua a parlare in Calabria, ma non deve aprire di carico, vuole avere di carico come quello di cielo, vuole aprire una carica nel Cosentino, perché sono problemi a rende per il problema, quindi sono scarica. Sì, ambito europeo. Ricordiamoci che sono previste pesanti sanzioni per i non disleghino della differenziata sotto le mete percentuali. No, Calabria siamo tra le più basse, dopo non sono gli ultimi. Sì, come siamo gli ultimi? Siamo ultimi, sì. Aggiungiamo delle vette del 10%, cioè qualcosa che meno forse è di banana. Quindi di conseguenza fu un malintento il piatto e sono costretto in braccio che fa. Un'ultima domanda, poi vediamo. Sì, e come è andato la col firme per la legge di iniziativa popolare sui di zero caricativo, che c'è un certo riscontro positivo? Lì l'emergenza parecchio sentita, poi noi contiamo non solo su Cari, andremo di Cari, parliamo anche dei comuni limitrofi, che comunque è nata una specie di una più stretta collaborazione fra tutti quanti, e vediamo che sono state raccolte solo a Cariati, credo siano passate 200 firme solo per i rifiuti, fatte in pochissime giornate comunque. Poi ci sono altri comuni lì vicini, Scalaceli, Crucoli, Torretta, una serie di paesini vicini che si stanno mobilitando. C'è una risposta, speriamo che queste firme non siano, rimangano insomma solo una bella iniziativa, anzi che iniziano a fare piuttosto la raccolta differenziata spinta porta a porta, la prima cosa eliminando i cassoni, quella è la cosa principale. Esatto, eliminando i cassonetti sarebbe la prima cosa, tanto è vero che chi non vuole eliminare i cassonetti a un certo punto magari si trova con i cassonetti bruciati, come sta avvenendo a Cosenza, che anche in questi ultimi giorni, dobbiamo dirlo, si è allineata al resto della Calabria, entrando pienamente nell'emergenza rifiuti, con della spazzatura che si trova un po' su tutte le strade, ammassata, cassonetti che bruciano e via dicendo. Quindi insomma speriamo che questa raccolta di firme per la legge iniziativa popolare riesca a smuovere un po' le coscienze dei cittadini, perché è uno dei primi obiettivi poi quello, e speriamo che si risolva insomma a partire dal basso questa emergenza, lasciando stare i tromboni che parlano, insomma dicono progetti molto, illustrano progetti veramente molto strani, di scariche. Scientifici, sì, in effetti si sente dire alcune cose, mi ricordo un periodo, lo dico, dicevano che la colpa era dei cosentini, la colpa dell'immondizia era di Cosentini, del comune di Cosenza, in quanto non volevano, però quasi volevano accusare del fatto che non fate bene la differenziata e quindi non funziona il sistema, e non credo che servano degli ingegneri in ogni appartamento, in ogni famiglia per poter fare una raccolta differenziata, e lamentavano anche il fatto che intorno a Cosenza non ci sono discariche e quindi la colpa a quanto pare per un bel po' di mesi, devo dire la verità. L'anno scorso sì, dicevano spesso sì, è colpa dei cosentini. Cosenza, la provincia, non fa la differenziata, non lo fanno bene e non hanno discariche. Quindi se non volete immondizia vi promettono nuove discariche. Quelle sono le soluzioni, capite? Ottimo, insomma, quindi si parla sempre di discariche, siamo sempre all'era della pietra, ma è bella questa cosa che la colpa è dei cosentini, insomma, che non sanno fare la... E poi alla fine si dice sempre che la colpa è dei cittadini che non sanno fare la differenziata, però non si dice mai che chi fa la differenziata alla fine magari riversa tutto quanto in una bella buca indifferenziata. Questo non lo dice mai nessuno, si dà sempre la colpa ai cittadini, è molto più semplice. Sì, come darei anche la colpa ai cittadini per considerare un argomento come il grosso riciclaggio di denaro che c'è all'Andrangheta, la mafia in generale, sui rifiuti. Questi sono i nuovi commerci, i nuovi business, rifiuti, lottery station, giochi d'azzardo, famosissimi, comproro che spuntano come funghi. Diciamo che sono cose che non prendono in considerazione. Ok, bene, io direi, se il nostro ospite che ci ha preso gusto e ci fa piacere, vuole aggiungere altre cose, oppure ci ascoltiamo una canzone finale, che dici ospite? Musica. Ok, musica. Ascoltiamo i Kina come ultima canzone. E io direi, sei d'accordo con i Kina, questa scelta musicale dei Kina? Non dimmi che non li conosci. Non te lo devo dire. Vabbè, ok, non li conosci. Allora, un motivo in più per ascoltare i Kina. Bene, io direi che questo è tutto. Ci ascoltiamo i Kina con Occhi di Rana. E vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo giovedì. Sì, chi dai fusti grigi della foresta di cemento salgono le urla sconnesse dei ridi degli ultimi pazzi mutanti. Due occhi di rana continuano a fissarmi ironici. Che disperazioni. Una carne reale che sta dentro. Svegliamo tenendoci ancora le mani. Questi giorni vai che passano uno dietro l'altro. Forse un giorno resterà qualcosa. Dei nostri affanni, forse allora saremo nel corpo della rana. Senza chiederci più il senso del giusto e dell'errore. Dietro di loro l'infinito.